Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Eneo se n'era andato. La sera calava e l'Alpino era sempre là. Pareva ormai deciso a restare sulla Maona. Ario e Berto, che seguivano ogni suo movimento con impazienza crescente, anzi quasi con ira, lo videro a un certo punto levarsi addirittura le scarpe. Seduto sul bordo, l'una gamba penzoloni sull'altra e l'altra tirata su, stava pulendosi i piedi con le dita. Adagio e attento. E intanto il tempo correva. Tra poco Lidia e Eneo, che a quell'ora dovevano già essere assieme, si sarebbero avvicinati alla Maona. Vedendo a bordo quello sconosciuto, che potevano fare? Avrebbero rinunciato per quella sera o si sarebbero diretti altrove. E così, addio scherzo. Ad Ario e a Berto pareva di impazzire dalla rabbia e si sentivano anche avviliti con un'improvvisa impressione di inutilità. Ario, tuttavia, a momenti, ed erano gli stessi in cui più gli cresceva l'impazienza, non cessava di sperare. Ha mangiato, ha bevuto, presto avrà finito con la sua sporca pulizia, speriamo che se ne vada. Eccoli! Gridò a un tratto Berto e indicò sulla riva, dietro le alberature dei trabaccoli, sulle quali s'erano già spenti gli ultimi riflessi del sole, Lidia ed Eneo. Camminavano un po' discosti, con indifferenza, come se non avessero nulla da dirsi. E ogni tanto li nascondeva, sinché non riapparivano dall'altra parte, uno dei vagoni rimasti lì dal mattino. Ario e Berto li seguivano con gli occhi di passo in passo e avevano un'unica speranza ormai, che procedessero adagio, che tardassero, in modo da dar tempo all'Alpino di andarsene. Guardavano un po' loro due mentre continuavano ad avanzarsi discosti come annoiati e un po' sulla Maona. Ed ecco, ebbero un grido. È andato via! La Maona era deserta, come prima. Mentre guardavano Eneo e Lidia, l'Alpino doveva essere finalmente sbarcato. Lo cercarono con gli occhi sulla riva e credettero di riconoscerlo in una figura che si allontanava dalla parte della stazione e che scomparve dietro alcuni vagoni. «Non perdiamo tempo, sbrigati!» gridò Berto. «Monta in caicio! Io rimango quassù e sto allerta come stamattina!» Proprio in quel momento, mentre Eneo proseguiva solo sin oltre i rimorchiatori, come se si fossero lasciati, Lidia era giunta davanti alla Maona. Nell'aria già incerta distinsero il suo vestitino azzurro oscillare sulla passerella. Due passi, e si intravide il bianco delle scarpette, era sulla Maona. Scomparve. Ario stava scendendo. «Hai tutto?» gli gridò dietro Berto. «Aspetta, ti do la tenaglia per togliere i tappi!» E lo raggiunse. Entrarono assieme nella rimessa. Misero sottosopra la cassa degli ordigni, ma, come accade quando si ha fretta, non riuscivano a trovare la tenaglia. «Maledizione!» esclamò Berto. «Perché non me l'hai... bisognava cercare prima!» La trovarono finalmente quando già disperavano. Era lì, a terra, fuori della cassetta. Dal caicio, mentre si allontanava dalle canottiere, Ario vide Berto riapparire in cima alla terrazza della Virtus, sotto l'asta della bandiera, e fargli grandi cenni perché vogasse forte. Cercò d'affrettarsi e si volgeva di tanto in tanto a misurare sull'acqua la distanza che ancora lo separava dalla Maona. Anche Eneo sarà in cabina, e da un pezzo, pensava, guardando ai propri piedi la tenaglia che gli aveva fatto perdere tutto quel tempo. Forse in questo momento stanno già... Rallentò, sebbene Berto continuasse a esortarlo agitando le braccia. Non poteva vogare con forza, Gli era riapparsa Lidia, come l'aveva vista varcare in quel vestitino azzurro che si confondeva con l'aria della sera, la passerella della Maona, rapida, risoluta. Le braccia gli si allentarono. Sentì un'angoscia e uno stordimento, assieme a un vuoto allo stomaco. Immergeva e ritraeva i remi quasi senza vogare. Lidia l'aveva veduta coi suoi stessi occhi salire a bordo, scendere nella cabina, muovendo senza esitazione le belle gambe brune. Gli riappariva ancora nell'aria della sera il bianco delle sue scarpette sul nero della Maona. Tutto ciò era di una crudezza da fargli perdere il capo, da togliergli ogni forza. Sentiva, dopo aver tanto fantasticato sui racconti di Berto, ora credendoci e ora no, la suggestione semplice e terribile delle cose vere. Era vero, senza scampo. Non poteva più dubitarne. Pensò, con un empito vorticoso di amarezza, a Ineo, a quel maledetto irresponsabile che l'aveva fatta precipitare e avrebbe voluto fargliela pagare, vendicarsi. Fargli non sapeva neanche lui che cosa. Poi capì che nessuno aveva umiliato e reso ridicolo Ineo, a sua insaputa, più di Lidia stessa. Gli ha fatto le corna, pensò. E come? Gli pareva ora, tanto quell'immagine lo inquietava, di essere stato lui e non il cugino di Berto a vederla mentre saliva in camera accesa in viso e ridendo col sottufficiale di marina. Ineo credeva di poter fare il gallo a Roma, a Capri o dov'era, e lei frattanto lo faceva becco, si lasciava alzare la gonna dai maschi che le piacciono. Nulla poteva colpire Ineo più nel vivo. Ella aveva dato ad altri, e forse anche a qualche canottiere della Virtus e persino alla Guardia di Finanza, la cosa alla quale egli ci teneva di più. Che poteva importargli in confronto delle signore che gli regalavano quattrini e di sua madre che tentava anche lei di legarlo coi soldi? Lidia aveva dato oggi all'uno e domani all'altro per divertirsi il proprio corpo. Risollevando il capo verso la Virtus, vide Berto, sotto la bandiera che in quel momento aveva ripreso a sventolare nel crepuscolo, rizzare il mento e fargli dei cenni interrogativi, come per dirgli «Che c'è? Perché ti fermi?» Un alito freddo trascorreva l'acqua e s'udì qua e là sugli alberi qualche schiocco. Le poche bandiere non ancora ammainate ebbero alcuni sussulti, pesanti, come di stoffa bagnata. Poi ricaddero. Quasi nudo sull'acqua, Ario sentì un brivido e si scosse. Tornò a stringere i remi con forza e si guardò in giro, respirando a fondo. S'allargava tutto intorno la sera del mandracchio, ariosa e insieme densa, che sapeva di salso, di catrame, di sardelle e dei fuochi accesi qua e là sui trabaccoli. La sentì, mentre riprendeva a vogare con impeto verso la Maona, come in un risveglio, quasi si trovasse lì per la prima volta. E ascoltò da ogni parte gli scricchiolii delle alberature e i cigolii degli ormeggi. Vogava con impeto, ma non con quel calore che lo aveva acceso nel pomeriggio, pensando ai convegni di Lidia e di Ineo sulla Maona. Provava adesso soltanto una fredda decisione. Quasi dovesse, ormai, compiere quell'atto per una fatalità che pesava su di lui da tutta quell'estate. No, da anni, da sempre, e stava ora forse per traboccare, per giungere al suo estremo. Rabbrividiva vogando. Si sentiva freddo, tutto freddo, come quell'acqua già scura delle prime ombre e corsa dagli aliti che si levano sul mare dopo il tramonto. Era giunto. Scivolò col caicio sotto la murata nera che trovò ancor tiepida di sole, specie ove era più ruvida di catrame. Tastò sott'acqua, immergendo la mano sino al polso. I tre tappi. Con l'aiuto della tenaglia li estrasse l'uno dopo l'altro e udì nell'interno, dopo un primo momento di silenzio, uno scroscio che si alzò e si espanse risuonando cupamente e andava ancora crescendo mentre egli afferrava i remi svelto e si allontanava. voleva raggiungere la boa per appiattirsi lì dietro e stare a vedere. Ma un'ondata improvvisa, di cui non seppe rendersi ragione perché l'aria era ferma, lo sollevò, gli torse tra le mani i remi e lo riportò con un solo balzo nel punto di prima, vicino alla Maona. Vide allora una cosa che gli fece intirizzire i capelli. La Maona cominciava già a sbandare sul fianco forato, di quel tanto che bastava perché l'ondata, che veniva proprio da quella parte, le salisse sopra, la invadesse, la sommergesse forse in pochi attimi, e Lidia e Eneo non apparivano ancora. Guardava a poppa, tutto teso, con spasimo. Niente. Il bocaporto restava chiuso, nero sul nero della coperta. Sono rimasti al buio, pensò, e non trovano l'uscita. In quello stesso istante, mentre l'ondata s'abbatteva spumeggiante sul corpo sbandato, massiccio e inerte della Maona, varcando nel bordo e investendo il cumulo di carbone che alzò una specie di sfrigolio, udì dentro come un ululato e il sangue gli si gelò. L'onda passò e la Maona sussultava ancora, inclinata sempre più, simile a un mostro ferito, quando gli parve di udire lì dentro uno sbattere di braccia e di gambe contro le pareti, come di corpi sballottati nel buio, e tornò a levarsi quell'ululato. Sussultò anche la petroliera deserta al di là della Maona, e rollarono e beccheggiarono come il mattino, con schiaffate e scricchiolii e un oscillare pazzo di alberature, tutti i trabaccoli e le barche nel mandracchio, e persino là in fondo le canottiere. Coi capelli irti, Ario capì. Erano gli incrociatori che uscivano dal porto. Alla prima ondata ne seguirebbe una seconda, una terza e altre ancora, come il mattino. Non sperò più. Guardò un'ultima volta la Maona a poppa, ove il boccaporto restava sempre chiuso, ed ebbe non più l'intuizione, ma la coscienza spietata del disastro. Pure, in quei pochi momenti tra la prima e la seconda ondata, che ebbero in lui una durata immensa, lo spasimo gli dilatava ogni attimo, egli supplicò che la disgrazia non avvenisse, che qualcosa di inaspettato, d'assurdo magari, si verificasse. Il pensiero gli era volato distinto a suo padre, a quell'oscuro padre lontano, e lo invocò con tutta l'anima. «Fa tu che Lidia sia salva!» gli gridava, come se egli oltre lo spazio vedesse e potesse tutto. «Salvali!» urlò ancora, sentendo l'onda avvicinarsi. Negli ultimi istanti, prima che il caicio fosse sollevato e sbattuto, lo incalzò un pensiero. «Papà!» gridò. «Perché non sono venuto da te, sinché ero in tempo? Dovevo partire, partire, anche se non avevo l'età giusta, potevo scappare. Ora è troppo tardi!» Le cose che avrebbe voluto fuggire, il pontone e le angosce dell'infanzia e di quell'estate, lo avrebbero seguito dovunque. Era inutile ormai andar via. Le avrebbe portate in sé tutta la vita, assieme al ricordo di Lidia e di Eneo, annegati per colpa sua. Venne l'onda, più violenta della prima, e gli sfuggirono i remi. Si trovò in alto e vide, nella luce della lanterna che s'accese in quell'istante, la Maona scendere in un avvallamento. Poi ricadde e la ebbe dinanzi a sé, incombente nel buio, per pochi attimi, mentre l'acqua le spumeggiava intorno da ogni parte. Risollevandosi infine col caicio, la vide sbandata sino all'estremo limite, con l'acqua nerastra e gonfia, chiazzata qua e là di petrolio, sul punto di superarne il bordo e di sommergere la coperta. Si mantenne così, immobile, come se quell'equilibrio potesse miracolosamente durare per pochi istanti, mentre il faro di nuovo la illuminava. e il boccaporto a poppa rimaneva chiuso, sebbene si udissero dentro dei colpi ripetuti e furiosi. «Lidia! Lidia!» fu per gridare, ma non aveva più voce. Avrebbe voluto buttarsi a nuoto, raggiungere la Maona, spalancare il boccaporto, trarla in salvo, ma era come paralizzato, con le gambe inerti. Che cos'era? E che importava adesso tutto ciò che Berto gli aveva raccontato negli ultimi tempi di Lidia? Tutto ciò che lo aveva sconvolto tanto? Nulla. Poco più che giochi da bambina in confronto alla cosa fredda e terribile che le stava ora innanzi. La morte. Tutto si poteva cancellare, dimenticare. Tutto, anche ciò che era venuto a sapere di Lidia poche ore prima, era come niente, come se non fosse stato, come se lo avesse soltanto immaginato. In quel momento, silenziosamente, l'acqua varcò di pochi centimetri il bordo e si arrestò. Fece un altro piccolo balzo, tornò ad arrestarsi. Poi, pianamente, senza un sussulto, tutta la Maona si mosse e scivolò sott'acqua. Rimase soltanto un gorgo, sul quale egli venne trascinato col caicio, e orrendo di sotto un rumore di risucchio. Udì anche uno scroscio irrompente. Il boccaporto si è aperto, l'acqua precipita nella cabina. Non percepì, non capì più nulla. Soltanto questo sapeva, che avrebbe voluto non andar via ormai, ma sparire, annullarsi, non esistere più. Risuonò in quella, dall'una all'altra parte del mandracchio, un urlo di donna, pazzo. «Eneo! Eneo!» Desiderò per l'onta di essere lui sott'acqua, più in fondo della Maona, 1000 metri più in fondo. «La mamma», pensò, e la distinse un attimo nel chiarore della lanterna, ritta sulla zattera davanti al pontone mentre continuava a urlare. Tutto il mandracchio la udiva. Avrebbe dato la vita pur di farla tacere. Cercò con gli occhi anche Berto, sul terrazzo della Virtus. Non c'era più. «È scappato», pensò. «È fuggito». E si sentì solo con la sua colpa, come era solo lì nel caicio. A un certo punto, mentre da ogni parte si levavano voci e sui trabaccoli si agitavano figure davanti ai fuochi e sulla riva qualcuno correva, sua madre non urlò più. Guardava, anziché nel tratto di mare lasciato vuoto dalla Maona, più in là, verso i rimorchiatori. Nello stesso istante, da quella parte giunsero ad Ario alcune voci. Si volse a guardare verso il Titanus, che grandeggiava accanto ai due rimorchiatori più piccoli, e vide, nel riquadro illuminato del boccaporto di prua, una figura atletica. Era lui, Eneo, e dietro di lui riuscì a scorgerla Lidia. Si affacciavano a guardare verso la sacchetta. La prima assurda impressione che provò fu che suo padre, di lontano, attraverso lo spazio, gli fosse venuto in aiuto e li avesse salvati. E si sentì un istante palpitare il cuore. Mentre il caicio sobbalzava sulle ultime ondate, scorse vicino un cappello che galleggiava con la cuba all'ingiù. «L'alpino», pensò. E gli sembrò di rivederlo seduto sul bordo con la bisaccia al fianco e il fiasco in mano. Era dunque lui dentro. Non era andato via come credevamo. Lidia, salendo sulla Maona, si deve essere accorta che nella cabina c'era qualcuno ed è subito uscita per andare con Eneo sul rimorchiatore. Era dunque lui al buio. Ebbe un brivido riudendo quell'ululato. Sono un assassino lo stesso, pensò. Un assassino! E afferrò i remi per lasciare subito quel posto. Il cappello, urtato dal caicio, si riempì d'acqua con un piccolo gorgoglio. Poi, rapidamente, affondò.